Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Sargante, traghettatore, bentrovati. Come giocare su internet e piantare in contemporanea un albero. Oluk.it infatti in apparenza è un sito di concorsi dove si può giocare per vincere tanti premi. In realtà, iscrivendosi e cliccando su mi piace, si entra in gioco in una classifica speciale che porta ogni 100 mi piace a piantare un albero. Tra l'altro viene piantato nel sud-est dell'India. È un'iniziativa in collaborazione con WeForest, che è un'associazione no profit internazionale che ha proprio l'obiettivo di contrastare il surriscaldamento climatico con azioni di riforestazione. Fino ad oggi sono stati piantati 200 alberi. E a proposito di contrasto di surriscaldamento e di basso impatto, è stata presentata qui la sede del Sole 24 Ore in anteprima europea, Satcar, che è la video auto satellitare di cui parliamo con l'amministratore delegato di Eutelsat, Renato Farina. Buongiorno Renato Farina. Buongiorno, buongiorno. Ecco, questa qui è un'automobile elettrica, quindi più e basso impatto non si può. È una smart, e la citiamo non per fare pubblicità alla macchina, ma per dimostrare quanto è piccola, che ha una incredibile capacità, quella di collegarsi col vostro satellite e di trasmettere le immagini di quello che si vede. Renato Farina, questa automobile da dove nasce? Beh, nasce da un contributo con alcuni nostri partner italiani, con i Carusnet ed Eutelsat, che hanno sempre traguardato nell'innovazione, nelle nuove opportunità che questo nostro satellite che abbiamo lanciato da un anno ci dà la possibilità di offrire. È una macchina molto piccola, con tecnologicamente molto avanzata, è ad impatto zero perché ha una possibilità ed elettrica, e con una grande possibilità di mobilità. Con questo nostro sistema satellitare c'è la possibilità appunto di dare connettività satellitare in qualsiasi punto, di conseguenza questo mezzo si può utilizzare nei casi di emergenza, quando c'è la necessità di portare internet e connettività in qualsiasi posto, c'è la possibilità di fare delle trasmissioni in diretta da qualsiasi punto con sia audio che video con delle ottime qualità. Questa automobile è straordinariamente piccola ed evidentemente è quello che rimane degli enormi autotreni che caratterizzavano fino a pochi anni fa le trasmissioni in video satellite, quindi la tecnologia che è contenuta nel piccolo contenitore della Smart è una tecnologia molto avanzata. Ma sì, è una tecnologia molto avanzata che ci permette anche con questa tecnologia utilizzare strumenti piccoli che possono essere inseriti in una macchina così piccola, ma soprattutto con alta capacità, con alte performance, perché riusciamo a trasmettere qualità estremamente alta. Bene, mettere e ricevere. No, stavo sottolineando che ovviamente questa automobile è in grado di funzionare in qualsiasi circostanza, in cima a una montagna piuttosto che nel pieno deserto, perché il satellite ovviamente non conosce ostacoli. Grazie Renato Farina e complimenti, perché questa è un'automobile che non ha uguali al momento in Europa. Grazie ancora e complimenti. Chiudiamo con il futuro ciclabile di Milano. È sempre il segno dei tempi che cambiano. Il futuro ciclabile di Milano è nelle mani, o sarà nelle mani, di un dirigente responsabile della direzione di progetto ciclabilità che nasce per l'occasione a Milano. È un bando scaduto proprio ieri, ma lo citiamo proprio perché vogliamo sottolineare che per una volta entra una figura che riguarda una possibilità di mobilità assolutamente ecologica in una grande città come Milano. È tutto per oggi, vi ricordo di cliccare mi piace nelle pagine Ferry Boat di Radio 24 su Facebook. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia. Alla prossima.